quella mattina sul fare dell'alba, la compagnia dormiva, compresa la guardia. Il terreno coperto dalle foglie cadute, nel freddo del bosco nessuna voce. Cavalli fermi, ombre nella nebbia, le mie ossa bagnate sembravano argilla, la barba sporca per una ferita. Alzai la voce, chiamai la donata. Oggi noi passeremo il ponte, oggi il nemico ci sarà di fronte. Combatteremo in modo esemplare, morirò davvero ufficiale. Ho scritto una lettera proprio ieri, parlava di cose che non comprendevo, il freddo in battaglia quando è alto il fuoco, il ronzare notturno che disturba il mio sonno. Ma oggi noi passeremo il ponte, oggi il nemico ci sarà di fronte, combatteremo in modo esemplare, morirò davvero ufficiale. Strani presagi accompagnano il passo, fiere che galleggiano nel fetore del fosso, fulmini che segnano il cielo di impronte, boati lontani, lontani dal fronte.